però è senza frequencimetro. Al posto del frequencimetro c'ha delle levette, capito? Guardalo su internet, scrivi Superstar 3009, ti apparirà col display blu, senza display blu. Ehi, vabbè, almeno c'è il posto, non si è accampato come gli zingari, Daniele. Adesso va bene, va bene. Ti ho mandato anche l'ok, ti ho battezzato, va bene. Una cartina geografica lì davanti e si è a posto. E esce per forte quella radio, Daniele. Già va bene, poi tu sei davanti a lui, figurati. Sei già Santiago 7 qua. Ti sei asciuscio, immagina la risorsa con un produttore. Che palle. Mi si è fulminata di nuovo la lampadina del 3009. Lo sbitter. Mannaggia la mignotta. Sì, mi si è fulminata così. L'ho spento. Ho messo questo, vedi, non si accende più. Ah, l'ho cambiata già una volta la lampadina. Porca miseria, una seccatura mi. Mi sa che gli metto il LED. Come ha detto qualcuno, gli metto il LED con la resistenza. E quello è dura in eterno. Cosa? Nello smitter? Ehi, si è fulminata la lampadina dello smitter del 3009. Quando ho attaccato questo, spento, riaccendo, è fulminata la lampadina. Ah, porca miseria, è una seccatura, mi dismontare tutto. Ah, che faccio? Da dietro mi pare che si può mettere la lampadina lì, si cambia da dietro. Non c'è bisogno di aprire il frontalino. No, caro, qua è un casino. L'ho già fatto una volta. 3009, io una volta ne ho sostituito una lampadina. No, della 48. Siete andati a mangiare? No, io ho già mangiato. Che palle, guarda. Vabbè, dai. Però è durata poco, l'avevo già messa nuova la lampadina, è durata poco. È come se arrivasse un po' troppa tensione alla lampadina. Quanti posso fare? O ci metto il LED bianco con la resistentina, c'è poca scelta per quelle lampadine, sono micro lampadine, piccola, mi sa che ci metto il LED bianco, faccio una variazione, LED bianco, così è bianco, bianchissimo diventa, e dura in eterno anche. Rispondimi al vocale, sì, beh, LED, tu immaginati che qua in questo 440 c'è una vita al LED, non si è mai fulminato. Non è un lavoro che ho fatto io, è un lavoro che ha fatto fare Roberto. Sono anche da chi. E praticamente c'è una vita, bello bianco. Poi c'è quello 430 originale, rimane più giallina là, la luce, capito? Sì, questo cos'è? Ascolta, ma sempre normale senza essere agganciato? Il segnale è uguale, diciamo che più o meno è uguale, però la spinge un po' di più di picchi. Però la modulazione è molto buona questa. E il sorso è mio. Non è che ci fa balle. E vanno bene però per essere il sorso o Daniele. Sta arrivando molto bene. E anche 5 è arrivato. Adesso sì, 7 è pieno. Con picchi positivi, però l'altro, quello modificato, spinge un pochino di più, Vai genio. Ma ti piace il Jopix Ithaca? Oh, lascialo andare, è delicatuccio, è troppo delicato. Cioè, a lui piace il Jopix Ithaca, quello piccolo, multicanale, c'è anche omologato, non lo so però. Io l'ho avuto un apparecchio simile, Midland 5008, ha dato solo problemi, ecco. Infatti ho detto mai più baracchine del genere. Radio anche quella. Sono senza baracchini, poverino. Questo per esempio è il Super Jopix 2000 col frequenzimetro. Sì, con microfono Proxel DM1000. Ma c'ho anche quello. Colore blu. Questo ha le cifre verdi. Guarda, questo è come il Pluto, però è cromato, capito? Frontalino bianco perla e poi cromature. Ma no, è quella là 48. Vedi, quello lì ti può interessare a te per il furgone, la LAN 48 a posto. La LAN 48 se è a posto funziona bene, e costa anche poco. Ah, modificato. Anch'io ce l'ho la LAN 48 dentro la scatola. La scatola non c'è più, dentro la busta, originale, capito, ma ho perché c'è una concessione e quindi volevo vedere. Vabbè, dai, è pronta la cena, non le prendo più, vi saluto, a domani, fatti sentire Daniele, la sera siamo sempre qua, dai, mi fa piacere scambiare due chiacchiere, giusto così, per ammazzare un po' il tempo. Ciao G, ci aggiorniamo domani, ciao Marco, anche a te e saluto tutti quelli che sono in agguato, tranne i miserabili, ciao. Ciao Daniele, fatti sentire allora, dai, 5 minuti, ci fa piacere. Ciao a tutti, notte. Ciao Claudio, dai, ci sentiamo allora, dai. Buona pappa, ciao. Andente, via. Va bene, ci sentiamo domani allora. Ma guarda un po' che mi tocca smontare tutto adesso per una lampadina, che non si mette là dietro. Bisogna armeggiare di lato, smontare il frontalino, tutto smontare. Mi sa che me la tengo spenta, non ho voglia di cambiarci. È una seccatura. Forse avevo anche la lampadina del cambio, l'avevo comprata già, due ne avevo preso, ma adesso vai a trovarla, sono microscopiche, non sono normali lampadine. E tu c'è un LED? Sì, quello col frequencimetro. No, mi si è fulminata la lampadina dell'altro, del normale 3009, capito? Mi, giustamente Pomponi ha detto, mettici un LED. Un LED bianco mi piacerebbe con la resistenzina che serve a... Antonella, cosa serve la resistenza? Abbassare cosa? Il voltaggio? E a 12, a 3 volte, da 2 metri, 3 là, lavorano a quel livello di LED. Ma cos'è, non ce li ha? E è andato, insomma, era una cagata, in pratica l'ho fatto controllare, ma niente, mi diamo piatta. Sono andato e mi ha detto, no, non c'era niente, mi ha detto. Ma domanda mia, ce l'ha o no il LED Fusaro con la resistenza? Dice ce li ha, lo dice Antonello, tira il LED e la resistenza. Dici voltaggio, quant'è? 12 volte, 15 volte, non so quello che fai lavorare tu, la parecchia. Tira il LED e il coso. Bianco ce l'avrà, perché qua era bianca la luce, cioè giallina, no? Se c'è bianca, bianco lo prendo bianco, così diventa bello luminoso. Aspetta, io mi sembra che c'è un LED bianco. Sei contento se funziona? Perché è durata un po' troppo poco la lampadina, troppo poco. Qualche mese è durata, sì. Forse 6 mesi è durata la lampadina. Dovrebbe durare una vita, figurati. Tanto non è che chiudo, almeno cambio apparato, dai, un attimino. Sì, ce l'ho. Lo funziona. Ma cos'è? LED all'alta luminosità? Io di bianco, se ne qui dove c'è il polo della lampadina, dove butta, se basta, poi con lui in più al capo, il meno analogo, capito? Poi vabbè, già te lo faccio vedere quando sei qui e... Se non scrivo io, capito? Così lo sbaglio. Vediamo, dai. Sì, un attimo che cambio apparato, dai. Voglio vedere com'è il baracchino spento. Perché lo smitter sale, però la lampadina è spenta. Cambio apparato, dai, un attimo. Sì, a fare. Ma tu mi clacchi, mi sapete salutare un po' fa, Uccini, ma anche gli altri. Abisese? Sì, che ci sono. Eia, ecco qua, sì, la lancetta sale, ma è spenta lo smitter, la luce allo smitter, che situazione strana, vedere la lancetta che sale è tutto buio. Sì, già lo so, ma come lo smitter di passare nella notte? Come il 4000? Non lo so, il 4000 non l'ho mai aperto, qua bisogna operare di lato, devi levare le manopole e la mascherina per agire bene, mi pare, ma come lo ricordo, pensa, sì, ho dovuto levare la mascherina, altro che, e bisogna infilarlo di lato, tu guarda lo smitter, no frontale, a sinistra lo smitter c'è un'apertura per infilare la lampadina o il LED, capito? Tutto lì. Ti ecco, vabbè, lo farò con calma, molta calma. E vabbè, quando vuoi, contatto, si è acceso, mi, eccolo qua, ho preso a cassotto il baracchino. ma non è che sono contatto, direttamente lei gli ha dettato la, come si chiama, aspetta, ha un nome all'interno della lampadina, non mi ricordo adesso, come per di solito facevamo così, ma non è che non mi molto, mi dà quel tanto lì, si chiama. Ah, dici che il filamento? No, Antone, io penso che non sia il filamento, che sia un falso contatto, perché erano talmente corti, cioè erano corti i fili, mi veniva male anche a saldare, capito? Vediamo. Ah, non lo tocco più adesso, lo lascio così. Hai visto? Gli ho dato due colpi. Oh, poi può essere anche il filamento che tocca, non lo so, Antone, però vedo che toccando non succede altro. Cazzo, in diretta si è acceso. E vabbè, dai, meglio così. Finché dura, poi lo cambierò. Io penso quando si tenga, dopodiché c'è già la farina, te la consiglio, non perderla. Te la consiglio di una pagata, come si chiama, gliela cambi, quindi si legge, così non lo cambi più. Capito? È molto, è meno di dura tutto l'anno, anzi, 5-6, quello che chiamo, addirittura, il LED di 80 è durato 4-5 anni, quello dell'alimentatore è stato, non è stato un giorno che non lo cambiamo l'alimentatore di LED, se non lo di colore celeste, è bello, la verità. Poi si può fare un winter, bello, se avevo tutti i contratti, viste quelle spade che vendevano una volta per i bambini, che cambiano colore, ci sono tre LED e cambiano colore uno e stanno sempre ruotando, quindi ti prende, diventa lo smitter, e così diventa bianco, rosso, verde, bianco, rosso e verde. Ehi, a Pomponius. Ehi, a... bene, bene, tutti hanno chiuso, sono andati a mangiare, siamo solo noi. Ecco qua, sto vedendo i massaggi, sì, li ho guardati tutti. Ehi, a... Ok. Bene, bene. Domani è il compleanno di mamma, forse volevano organizzare qualcosa in pizzeria. Speriamo che non mi peggiori sto raffreddore. Adesso ho sudato il naso con la rinagina, quella che è un vaso costrittore, no? Se il naso è gonfio, se la mucosa è gonfia, la è congestionata, la decongestiona. Prima avevo una voce tutta, stavo parlando così, mi... Ok. Che ore sono, Antonio? Me lo sai dire piuttosto? Sono due, sono sempre messo passate. Sono guardato poco fa, erano le 8:25. Pensavo di essere mezzo puntato. Quindi ho inteso e sono andato con un vicino giù a Muros, a Muros, vabbè, a fare il gioco, a cambiare un'antenna, cioè, a fare scendere la mazza, tutto, questa antenna qua, ho dovuto tagliare il tubo segreto, che è l'unico modo per poter fare il lavoro. Un odore di cose con le scale da morire, siamo quando tu siete sono stato pieno di odore di metal e piccione, cioè, ogni volta che vanno lì mi vengono disponibili. E l'antennista ma c'era un po' così, dai. Oh, un po' steso sono però, per questa storia. Devo aver preso correnti fredde anche a casa, perché mamma è tutta conto suo, a lei piace l'aria, quindi ha aperto il bagno qui, no? Il bagno principale nel bagnetto in fondo dopo la cucina. E si crea questa corrente fredda, fresca, siccome poi viene proprio corrente, la senti, il cerotto ti gela addosso, cioè... che è pieno inverno, lei non ha capito che siamo in inverno, c'ha delle fissazioni, ma vabbè, va bene, tutto, ecco qua. Che dritto, mi sta venendo anche da fare la pipì. Mi sa che a me, che poi che scemo, te l'ho chiesto a te, avevo lo smartphone in mano. Le 20:43 adesso, so. 20:44 anzi, ecco. 9:15, dai, quasi. 9:15. Film, oggi cosa c'era? Mercoledì. Oggi è mercoledì. Sì. Va bene. Antone, che facciamo? Chiudiamo? Ma tu perché entri sempre così tardi, Antone? E poi, proprio quando chiudo io, entri. Però va bene, il copilare è messo a passare più lunga, ci sono anche 22. Da un cosa all'altra, prima sono l'avvocata, avevo visto, sono l'avvocata al 5 e mezzo e mi telefono a te. Dice, Antone, ci mandiamo lui, per domani sera. Perché non ho ancora comprato il foglio. E scusa giù. Ma la domanda, tu partivi, immagini, da qui e arrivare alle carceri che ci sono lì a Roma. E così ho fatto anche la salita. Ho trovato lo zambirico, ho fatto la fila, cazzo, era di pieno. Poi cazzo, tra i miei conoscenti di ginecologo, era pieno di donne a mascolare il paccioccio. Mi, perché non hai fatto il ginecologo tu? Eh? Oh mio Dio. Fece a vedere la foto del profilo di coso, la barba c'ha un po', Claudio, la barba si sta facendo crescere, il barbone sta diventando, c'è più capelli in faccia sul mento che in testa. Chi sei, Claudio? No, a mangiare è andato. Ehi. Ogni tanto cambia foto del profilo, io ho lasciato quella del pipistrello. Oh, yeah. Mamma Saula, tu c'è sempre quella foto del cane, non è mai cambiata, no? Venerdì voglio andare in pizzeria, ma non ho capito chi siamo, quanti siamo, se tu vuoi venire, se non vuoi venire. Non ti pronunci mai. E poi sai cos'è venerdì? Venerdì 17, mio occhio. Che dobbiamo toccare ferro, toccare... Sì, no, per quello già non ci devo andare a chiedere, perché dovevo andare a chiedere, mia sorella, mi ha contato male il fratello, giusto, ci sarà facile tutto per fare tutto qua. Mi fa un sacco di documentazioni, quindi la mattina qui mi ha fatto, al limite, ovviamente, sono vari di chiamo di tirare, insomma, ho organizzato, il posto del tiro, dove devo passare del tiro, buia. La pizza, cosa ho detto? Sono quando sono all'interno di pizzeria. Sarà almeno una 10 alami, sono 15 pure. Calotto, sì. Ah, tu scappellato. Guardate, a pisciare. No, sono andato a parlare un attimo con mamma. A vedere, stavo guardando la TV, insomma, com'era. Ieri, non volendo, l'ho fatta piangere, lo sai. Una battuta un po' troppo così, ci è rimasta male, stavo un po' piangendo, poi sono andato, l'ho tranquillizzata, ho detto no, ma io l'ho detto così, tanto così, e dice non hai tatto, certe volte a me ha detto non hai tatto quando dici le cose, e io ho detto vabbè, ma non c'era nemmeno la piangere per una battuta, hai capito? Se no poi mi taglia i fondi. Riccardo, sei andato, non ti taglia i fondi, stavo dicendo poco fa, e sono detto mio, quindi cani la mia piranha che trovano in pizzeria, penso che questi miei li apparteranno, se ti posso dire la presa. Sì, il tuo conto, la pizza dalle 5 alle 7 euro, 8 euro, dipende cosa prendi, a meno che non pigli i frutti di mare, poi una bevanda 3 euro, il coperto 2 euro, 3 euro. non ti preoccupare, non ti preoccupare. Capito? Dopo la vendita qualche soldo ce l'ho in più, no? Capisci a me? Bene, bene, bene. Dopodomani sarebbe, speriamo che mi passi un po' sul raffreddore e bisogna decidere cosa fare, anche perché io non muovo la macchina, cioè Gianni viene a prendere me e viene a prendere Natalino, che gli viene bene. Tu sei un po' fuori mano, a meno che non ti prenda Claudio, che è attaccato a te, capito? Ci stiamo organizzando così. Eugenio, vabbè, deve venire da Polo Torres e non porta nessuno, perché non c'è nessun altro da Polo Torres che viene. Gianni prende me, fa il Ponte Nuovo, prende me e Natalino scendendo. Tu puoi andare con Claudio, che ti prende in macchina. Poi mi pare Valerio viene da Alghero, credo che vada direttamente da Claudio Valerio, così credo di aver capito, ma chiedo conferma. E quindi saresti tu, Claudio e Valerio in macchina, capito? In modo da... perché caspita, se la prende Natalino la macchina non trova più parcheggio dopo che torniamo. Io lo stesso, Gianni ha detto bene, non c'è problema, hai capito? Quindi bene o male saremo... Poi Elio Piuma non ha dato risposta, Elio Piuma. Stefano purtroppo non c'è, saremmo io, tu, Natalino, Gianni, Claudio, Valerio e Eugenio, capito più o meno, fammi contare. Quindi Gianni, io, Natalino, poi Claudio, Valerio, Eugenio, e se vieni tu siamo 9, caspita, siamo un bemmi. Altro che sì, posti da prenotare. Basta che non ti bevi tutta la birra della pizzeria, mi dalla botte. Copiato Antonio, ma è sparito, mi va bene, aspettiamo un po'. Chi è che mi ha scritto? Ui, sempre messaggi, aspetta un attimino. Sì, a te ne stanno comprando dei fogli. Se non è che devo andare all'INA, mi sa, a fargli fare l'esenzione a Giampiero del FIT. Se non mi hanno né materasso, né la gru per sollevare a lui, cazzo, per il bilancio non ho detto la segna lo stende, cazzo. Cosa devi fare, Antonè? Devi andare all'INAM. Sì, a fare l'esenzione del ticket a Giampiero. Se no non mi danno né il segno rotelle né la guetta per poterlo scendere dal letto alla sega, capito? Poi ci sono i panni, c'è tutto, capito? Il discorso è tutto. E quindi non è anche a me, se non è stato poi a me la fila, io me ne sono apposta, scusami, andare dal medico, fargli dargli il foglio per l'esenzione, firme di esenzione, se no non mi danno niente, capito? Tutto per così. Quelle orecchie finocchie, però bene. Ehi, cazzo, ancora in chiaro sono quelli, bobo. Ormai sono tutti in digitale o in cream, in tetra, in coso. Se gli hanno tagliato i fondi a loro. Cosa mi stavi dicendo, Antonio, che mi sono distratto? Prima ti stavo dicendo che saremo, se viene anche tu, siamo 9, cioè Gianni, io, Natalino, Claudio, Valerio, Eugenio, e se vieni tu siamo 9, altro che prenotare per 6. No, domani è giovedì. Sarebbe per venerdì alle 8. Alle 8 trovarci lì. Trovarci lì in pizzeria, cioè dietro Brickman, capito, Brickman. Ma a me basta anche una margherita, Minat o Antonè. Ma a me basta una margherita, non sono mangione io. Capito? Io capito, dietro Brickman. E qui cosa c'è di pizzeria? Sì, dietro Brickman c'è cinesi, cose, c'è anche una pizzeria, dicono che sia buona. Non mi viene quella pizzeria dove c'è anche la quello che suona, no? Dal vivo. Dal vivo? No, non credono. Non lo so, Antonio, io non ci sono mai stato. Mai stato. Dovresti chiedere a chi la conosce. Bulldozer la conosce con la pizzeria, ti può dire tutto lui, credo. A me ha detto che c'è il forno a legna e il forno a pellet. Si è scaldato dal fuoco del pellet. Così pare. Ma la forno a legna è una cosa, il forno a pellet è un'altra, perché se sta la pizza sta con il pellet. È proprio uno schifo, davvero. La pizza con la forno a legna è come... perché sta con il forno a legna. La legna stessa. E invece è visto che la pizza con la compie la forno elettrico non serve a nulla. Beh certo, non esce il fumo del pellet, no, semplicemente la fiamma riscalderà la piastra da sotto, ma non deve avere assolutamente odore di pellet. A parte che non sapevo che esistessero i forni a pellet, io spero che la facciano in quella a legna, ha un sapore più buono la stufa fatta con col forno a legna, la pizza col forno a legna, voglio dire. Ma a te che pizza piace per esempio? A me piacciono un po' tutte, mi piace molto la ortolana che ha la verdura, oppure quella capri acciughe, oppure quella con funghi, acciughe, una è la completa, l'altra è la quattro stagioni, in poche parole. Quella lì mi piace, a me sai questi gusti lì, o una o l'altra. Dice tu mangio quella quattro formaggi, che se mangio quella fatta direttamente in bagno dopo 10 minuti a cagare, ma veloce, mi stavo dire, e tu puzzolente pure, perché la cosa allucinante del formaggio, qualche volta me l'ho fatta io, ma una notte, dopo un'ora che l'ho mangiata, corro subito in bagno, un odore, non si poteva neanche stare, ho dovuto usare quel profumo, quello forte, che vengo in ufficio, vedete quello... che allucinante, cazzo che ti nausea. Ehi, sei poco delicato, Antonè, io mangio, basta, lo dico in parole mie, anche la cacca mangio, digerisco tutto, la quattro formaggi, mi ci butterei dentro, buonissima la quattro formaggi, soprattutto con la gorgonzola, mi filante, anche la crosta mi piace quando mettono la crosta al gorgonzola anche, che sa di terra, quella mi manda, invisibilio mi manda. Mi piacciono le cose odorose, capito? Ah, che va bene. A me è proprio quattro formaggi non mi va. Quattro stagioni e l'altra sì, è la completa. Quella c'è buona. La facevo portare ogni tanto alla pizzeria perché costa il... è vicino anche la tua pure. Il lunedì e mercoledì. Paghi 5 euro solo, quasi di pizza, quindi. Che poi quando non voglio riempirmi, margherita mi prendo con origano, pizzichino l'origano sulla margherita, buonissima, senza impegnarsi troppo, che se la chiedi troppo piena di roba ti stanca anche. Non riesco manco a finirla, capito? Io ho lo stomaco piccolo anche, no? Non sono un grande mangiatore. Quindi vediamo. Piuttosto io una volta volevo provare quella pizza che non ho mai provato, con panna e salmone. Non mi ricordo come si chiama. Panna e salmone, deve essere un bijou, deve essere. La pescatola, è stato giusto. Una cosa del genere. O frutti, no, frutti male un po'. Forse la pescatola, non lo so. Quando il pizza lo fa vicino a te, mi con le pizzerie. Se non vedi i telefoni. E mercoledì lo paghi 5 euro. Non paghi di più, qualsiasi tipo di pizza, tu prendi sempre 5 euro. Sì. pizza mangiata in pizzeria, proprio bollente, che c'è al forno, è tutta un'altra cosa, che non mangiarla in casa, trasportata. Essere serviti a tavolino è bello, è tutta un'altra atmosfera, poi quando sei in compagnia ti diverti anche, capito? Ok, qua continuano ad arrivare messaggi, cazzo. Un euro, telefoni, assicurazioni, mi stanno arrivando messaggi di tutti i tipi. È una palla, mamma mia, se potessi bloccarli tutti questi messaggi sarebbe bello, ma su questo pari che non so come fare. Piuttosto, Eugenio, oggi sia all'ascolto. Ah no, ha chiuso proprio a mangiare. No, quello è salmone, spero che sia fresco il salmone. Poi non so se lo mettono affumicato, a fette fresche, non lo so. Panna e salmone. Un bisù da pesanti. Adesso cerco su internet e cerco il nome di quella pizza, perché ha un nome quella pizza. Allora, vabbè, come ti piace mettere un nome diverso, per cui devi controllare quello che c'è all'interno della pizza, capito? Ah, poi la panna non è panna, capito? È sperma. Con quello devi fare lo zattare. Che schifo! Mamma mia, te ne immagini che porcheria! È lenta questa internet, mi fa incazzare, guarda! In base a dove stai, il segnale forte oppure il segnale basso? Qua è più basso. Mezz'ora aprire Google. Non me l'apre. Aspetta, aspetta che riprovo. Riprova. Sarai più fortunato. Ecco, adesso me lo sta aprendo. Adesso metto pizza, panna e salmone, nome. Anzi metto, guarda, nome. Pizza, panna, salmone. Vediamo se me lo dà. Nome, pizza, panna e salmone, vediamo. Un attimo, arrivo subito. E io? Non sai che di almeno 20 c'è la pizza a 5 euro tutti i minuti. Poi invece c'è il martedì, mercoledì, giovedì c'è giro pasta, 8 euro. Poi il menù visto 12 euro comprende primo, secondo, un contorno a scelta, sono avrete le proposte, le serve, una bevanda. Non è molto. Poi c'è, vabbè, più carità, più calcetti, capozzi, mi sono sentito la niente. Eccomi, Allora qua non mi dà nome Antonello, perché credo che le pizzerie diano nomi diversi, non so come si chiama, la norvegese, sai, salmone, ed è salmone affumicato e panna, buonissima, cioè per me è buona, invece la pescatora ha frutti di mare, no, non mi piace, proprio non mi piace perché non mi piace. Preferisco pizze normali, classiche, con quella quattro stagioni, oppure capricciosa, tutte quelle là, l'ortolana molto, ci sono rucola, zucchine, melanzane, capito? È buonissima. A chi piacciono i vegetali, no? Quelle cose lì, molto buona. Questo è un codo qua, si chiama Dani Converter DC 145 900 MHz, la Intec, si attacca la baracchina alla 27 e ascolti dai 145 900 MHz. Eia, mi sto prendendo una ricetta, il titolo si chiama Fjord con la Ilunga, mi, roba norvegese, vediamo. Magari si chiama davvero norvegese, mi. Prima la però questa pagina, a Napoli. Vediamo. Ah no, qua è la ricetta proprio, no? Vabbè, il nome non si sa, sarà norvegese. Insomma, oppure basta chiedere pizza, salmone e panna. Magari proprio quella che voi dice, il salmone è finito. L'era in lì. Va. Oppure mi ci facciamo fare una pizza all'ananas a vedere come ne esci. No, prima facciamo la pizza, prendiamo il sito di due, poi se con la pizza siciliana per smaltire il capitolo siciliano servizio, la pizza ci facciamo fare un lavoretto. Una volta da Belloni, buon'anima, Belloni, traversa di Piazza Italia, pizzeria piccola ma quanto abbiamo mangiato bene, avevamo mangiato una pizza, prosciutto e panna, un bel di prosciutto di panna, mamma mia quanto era buona, non puoi capire. Belloni lo sai chi era, lo conoscevi? A fianco a Piazza Italia. Ma guarda, pizza come quella non è ancora mangiata, poi con quel sapore prosciutto panna. Purtroppo è andato in cielo Belloni, il figlio non ci ha saputo fare tanto, credo. C'è una piccola pizzeria, ma credo sia una pizzeria al taglio, così, pizzeria fessa, così. E andiamo che sono a 6 anni con tuo. Andiamo dentro, vediamo le pizze, ce le mangiamo. Poi prima fuggi tu, fuori, praticamente andare in bagno, poi su Guglio e andiamo. Sì. Per carità, l'amicizia, ma non lo so cosa gli passa in testa alla gente, come mai abbia agito in questo modo, non lo so cosa, o sta impazzendo. E vabbè, buon viaggio, io campo bene lo stesso, capito? Peccato per il tablet, vabbè, allora, tornava utile, pazienza, mi sta salendo su, che schifo, il pollo che ho mangiato, mi sta salendo su e giù. Io l'ho mangiato anche a pranzo, io sono scelto a Pisa, qua, e poi... Avevo lasciato la portata inserita. Antonello, vi dà delle noci.